Devo dire che sono molto felice di questa disponibilità del Comune di Bologna e della Regione di darmi questo spazio, l'opportunità di raccontare questi 40 anni di cose che sono di questo viaggio di parallelo alla mia storia musicale, che a volte si è intrecciato con copertine disegnate da me, altre volte invece l'ho tenuto un po' nascosto, altre volte ho fatto qualche racconto, un libro autoritratto in cui raccontavo la mia passione per il disegno, però diciamo qui si svela un po' una cosa nuova che così in modo così approfondito non avevo mai fatto vedere. E soprattutto riusciamo a vedere anche i quadri, no? Che sono un aspetto fondamentale di questa mostra. Quali sono le caratteristiche secondo te che mettono più in evidenza il tuo mondo, il mondo di Luca Carboni all'interno di questa mostra? Questa mostra parte dall'84. Io ho cominciato a disegnare quando ho realizzato il mio primo album, perché volevo disegnare le storie dei miei video per farle vedere ai registi. E da lì è nata la passione per il disegno, quindi ho cominciato disegnando la mia musica, provando a disegnare anche i testi delle mie canzoni, e poi pian piano ho scoperto verso il 2000 la pittura, una pittura più autonoma, più sganciata dalla musica. E in questa sala, per esempio, ci sono molti quadri di donne, anche le cattedrali, che sono quasi delle sculture, che è un po' il lavoro che ho fatto negli ultimi anni. Ecco, il curatore ti fa Juve, di là abbiamo visto anche la maglia del Bologna. Ecco, come nasce questa, sai che c'è questa diatriba, no? Con la Juventus. Sì, Luca Beatrice è un grosso tifoso della Juve, io un grosso tifoso del Bologna. Abbiamo condiviso lo stesso allenatore adesso e quindi staremo a vedere, dai. In ogni opera c'è tanta, tanta, tanta Bologna, già dalle cattedrali che hai citato, c'è una petroniana, San Petronio, per così dire. Riesci a mettere in ogni espressione questa felsineità innata, non solo quando lo espliciti, ma anche quando vai a narrare nella semplicità quello che è la nostra città. Sì, io credo che il posto dove nasci, dove vivi, ti segni, diventi in qualche modo una parte del tuo carattere, della tua personalità, del tuo essere, e avendo l'opportunità di fare cose che comunicano, come canzoni, come la musica e le canzoni, mi è venuto sempre istintivo, e adesso si scopre anche nella pittura, di poter raccontare questa parte di me che è imprescindibile, insomma, e quindi praticamente Bologna c'è ancora di più dentro la pittura, perché le forme dei portici, l'architettura dei portici mi ha ispirato a questa forma di donne, perché mi piaceva l'idea, girando in macchina di notte per la nostra città, vedendo i portici illuminati, immaginavo che fossero facce che mi aspettavano, che mi guardavano, che mi osservavano passare. Un'ultima cosa che all'interno di una struttura come questa, no? Le istituzioni ci sono state vicine in qualche modo, no? Per permettere una mostra di questo tipo. Ma sì, devo ringraziare il Museo Internazionale della Musica di Bologna, che mi ha dato questa opportunità, il Comune. Li ringrazio tanto di aver voluto permettermi di celebrare questa storia particolare mia proprio qua nel cuore della nostra città.